Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Cuneo. Le imprese della provincia Granda. Di Andrea Ferro. Tradizioni produttive combinate con le opportunità offerte dalla tecnologia. È questa miscela di saperi, conoscenze e voglia di fare a tessere la rete delle piccole e medie imprese del cuneese. Una realtà solida e variegata, capace anche di esprimere eccellenze a livello mondiale. Nella provincia Granda ha fatto tappa il Digital Tour di Imprese Vincenti, l'iniziativa promossa da Intesa San Paolo per valorizzare le piccole e medie imprese. Al seguito di questo Giro d'Italia, oggi vi proponiamo tre testimonianze di vita, di famiglia, di lavoro. A Canale, tra le colline del Roero, ha sede Green As Italia. È specializzata in fertilizzanti e biostimolanti e nel corso degli anni ha sviluppato una propria peculiarità produttiva. Lorenzo Gallo è il vicepresidente. La nostra azienda inizia la propria storia nel 1985. Per la verità lo scopo iniziale era quello di produrre sistemi di colture fuori suolo. Questo è stato l'oggetto per cui siamo nati, ci siamo specializzati nella nutrizione delle piante e poi dopo 2-3 anni abbiamo deciso di orientarci in maniera specifica per la produzione di fertilizzanti e specialità nutrizionali. All'inizio quello che ci contraddiceva è che i nostri prodotti devono essere distribuiti con l'acqua, quindi a differenza dei concimi tradizionali, quelli che siamo abituati a vedere magari nei consorzi agrari, nel rivendita dei prodotti per l'agricoltura, questi sacchi enormi che vengono distribuiti direttamente al terreno, i nostri devono essere sciolti nell'acqua. Questo è un grosso vantaggio perché si unisce quella che è l'irrigazione, quindi la nutrizione, se vogliamo, dell'acqua, a quella, diciamo, dei fertilizzanti. Questo fa sì che la pianta si nutra poco a poco, utilizza quello che è necessario e non ci sono grosse dispersioni nell'ambiente, a differenza di quello che era il sistema tradizionale. Poi l'applicazione fogliare, le piante anche loro utilizzano dei microelementi, sostanze particolari che vengono utilizzate in bassissime quantità, queste vengono veicolate attraverso le foglie e anche queste sempre attraverso diluizione nell'acqua. Il presente di Green As Italia segna un fatturato di 20 milioni con un'ottantina di dipendenti. Gli investimenti in ricerca e sviluppo delineano nuove interessanti prospettive per una crescita ulteriore dell'azienda. Adesso stiamo sviluppando dei prodotti che vengono definiti biostimolanti, che sono stati normati recentemente dalla nuova legge europea. Questi biostimolanti sono prodotti che agiscono sull'efficienza e sul metabolismo delle piante, non sono veri e propri nutrienti. Se vogliamo fare un parallelo con l'alimentazione umana, parlare di probiotici, di integratori, prodotti che anche sulle piante, con la stessa filosofia, migliora l'efficienza della nutrizione. Come è noto, quello che ci viene richiesto in questi anni è quello di ridurre per quanto possibile l'input dei prodotti chimici e gli input in generale in agricoltura, soprattutto chimico. Quindi questi prodotti che migliorano l'efficienza dei nutrienti e della pianta sono molto molto molto interessanti e comincia ad esserci un mercato molto interessante a livello europeo ma anche globale. Il 75% della nostra produzione viene esportata, il 25% è sul mercato nazionale. Praticamente al confine tra le province di Cuneo e Torino, a Poirino, ha sede VIT. Produce detergenti per uso domestico, cosmetici, creme, integratori, offerti attraverso un sistema di vendita diretta. Questa storia inizia nel 1970, come ci racconta Aristide Artusio, amministratore delegato. È nata producendo detergenza ecologica, già per rispetto della natura, già 50 anni fa, quando gli davano tutti un po' del pazzo al titolare che faceva questo tipo di lavoro. Oggi invece è di gran moda. Noi purtroppo non è moda, ma è esperienza, cioè abbiamo 50 anni di esperienza. Il momento di svolta è stato nel 2001, quando è stata acquistata questa azienda dal sottoscritto. Era una piccolissima azienda, fatturava allora 1 miliardo di lire. Poi dopo siamo passati in euro, calcolate che quest'anno chiuderemo oltre i 17 milioni di euro, perciò c'è stato veramente un balzo notevole. l'era già impostata sulla vendita diretta. L'abbiamo sviluppata tantissimo perché io ci credevo molto, e anziché andare verso i supermercati o verso la grossa distribuzione, ho incrementato molto la vendita diretta, perciò direttamente dall'azienda al consumatore. E poi abbiamo comprato un'azienda che aveva anche difficoltà, che si chiamava Erboristeria Magentina, per entrare nel settore erboristico farmaceutico. La sostenibilità è il valore e al tempo stesso l'obiettivo di riferimento verso il quale sono orientate le prospettive di sviluppo di VIT e in forza delle quali l'azienda continua ad assumere. Abbiamo investito tanto nel settore marketing sulle persone, abbiamo addirittura un'equipe di 8 persone, di cui 2 farmaciste laureate in farmacia, 2 laureate in erboristeria, proprio per sviluppare sempre di più tutto cosa sono i prodotti nel naturale, eccetera, ma anche tutta l'ecosostenibilità, la questione del packaging dei prodotti, dell'impatto che possono avere i prodotti, ecco, diciamo, perciò i contenitori, le scatole, eccetera. Andremo anche su questo, sulla sostenibilità di questi prodotti. Dipendenti siamo ormai arrivati oltre i 60, ci avviciniamo già ai 65, stiamo continuando ad assumere, perciò penso che fine inizio prossimo anno arriveremo vicino ai 70 persone. Ora a Cavaller Maggiore, una 40 di chilometri da Cuneo, per raccontare un'altra trama di vita e di lavoro. È la storia di un idraulico che nel 1982, sull'onda lunga di una passione per il lavoro, impalca una solida realtà imprenditoriale. Oggi l'azienda fattura oltre 18 milioni di euro. È la storia di Scott, specializzata nella produzione e nella manutenzione di impianti industriali idrotermosanitari. Federico Bertola è uno dei soci. La storia inizia con dall'attività di quello che è il fondatore, che è mio zio Felice Scotta. Praticamente riutilizzando quelli che erano dei vecchi magazzini agricoli a fianco a casa, crea un magazzino e inizia di fatto a fare l'idraulico. E negli anni sviluppa molto, moltissimo questa realtà, e si passa nel giro di 30 anni di durissimo lavoro, dall'iniziare praticamente da solo ad essere in 150 persone. Adesso l'azienda offre, diciamo, un pacchetto completo per quanto riguarda le soluzioni impiantistiche, sia dal campo industriale al campo civile. L'azienda si vuole proporre un po' come unico referente per tutti i sistemi tecnologici all'interno di un fabbricato, e quindi realizza impianti meccanici di condizionamento, antincendio, idrico-sanitari, ma anche tutta la parte di impianti elettrici e speciali. L'azienda è nata come impresa idraulica e poi mano a mano ha inserito tutti questi altri servizi all'interno della propria offerta. Con il passare del tempo, Scott allarga i confini, che vanno ben al di là della provincia. In Italia sono state aperte alcune filiali che hanno una propria struttura e che lavorano collaborando con la sede centrale, ma con propria autonomia, in Valle d'Aosta e in Liguria. E da anni però c'è una sede attiva in Romania e un'altra nel Principato di Monaco, che lavora sostanzialmente poi in tutta la Costa Azzurra. Negli anni si è provato anche a lavorare in altri paesi, e non è mai una scommessa facile, quindi alle volte questa cosa riesce, nascono delle opportunità, altre volte questa cosa riesce meno. E l'intenzione sicuramente c'è, diciamo che il momento adesso è complicato, però la volontà di crescere continua ad esserci. Si è sempre cercato di mantenere uno standard elevato di quelli che sono i servizi offerti. Si è cercato, nonostante la crescita dell'azienda, di mantenere una struttura snella, e a nostro modo di vedere questa cosa qui consente di avere una velocità di intervento non indifferente, nel senso che si riesce ad essere operativi e rapidi e a risolvere velocemente quelle che sono le diverse esigenze. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.